Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura di questa prima puntata di settembre, un aggiornamento sui conti del nostro sistema logistico. Sono confortanti i dati che arrivano dal rapporto congiunturale presentato dal Centro Studi di Confetra e relativo al primo semestre 2017. Rispetto allo stesso periodo del 2016 il segno positivo è un po' ovunque. Si segnala un buon recupero per i comparti delle spedizioni internazionali via mare più 5% e via aerea più 4,9%, ma gli incrementi più significativi arrivano dagli express courier, sia per il numero di consegne più 6,5% che per il fatturato più 6%, performance determinate essenzialmente dalla crescita costante dell'e-commerce. Il trasporto ferroviario segna più 1,7% ed eccoci all'autotrasporto. I traffici nazionali sono cresciuti del 4,9%, quelli internazionali del 5,2%. In termini di fatturato il progresso è stato rispettivamente del 4,7% e del 3,8%. Questi dati indicano quindi che, seppur a rilento, la ripresa nella logistica c'è, ma contemporaneamente restano zone e ambiti di sofferenza, in particolare proprio per il mondo dell'autotrasporto. I motivi sono ormai ben noti: la deregulation che di fatto caratterizza il mercato penalizza le imprese italiane, più in generale quelle della vecchia Europa, la concorrenza sleale sotto forma di cabotaggio abusivo e dumping sociale praticata dai vettori dell'est continua a mietere vittime in termini di aziende che chiudono e di posti di lavoro che vengono meno. La regione che per motivi geografici è più esposta a questo stillicidio è il Friuli Venezia Giulia, dove la crisi dell'autotrasporto può considerarsi ormai un'emergenza, come ribadisce al nostro microfono Pierino Chiandussi, presidente regionale di Confartigianato Trasporti. Noi abbiamo perso 1500 imprese negli ultimi 9 anni, e questo è un dato molto sintomatico per far capire le difficoltà che stiamo sicuramente attraversando. Il cabotaggio non controllato ha provocato questa situazione veramente di massacro per le imprese nazionali e non solo sicuramente della regione Friuli Venezia Giulia. C'è qualcuno che parla di liberalizzare addirittura il cabotaggio? Questo non è minimamente nemmeno accettabile da sentire dire una cosa simile. Il cabotaggio, se non regolamentato e controllato, provocherà l'annullamento sicuramente delle imprese qui regionali di autotrasporto. Abbiamo perso migliaia di posti di lavoro, il PIL nazionale ha perso milioni di euro nell'erario, e allora di cosa parliamo? In Friuli Venezia Giulia quindi il mercato è completamente stravolto e accade un po' di tutto, anche perché i controlli sono scarsi. Sentiamo ancora Chiandussi. Ormai arrivare giù da Budapest o dalla Slovenia addirittura con un camion vuoto, perché lei lo sa che il regolamento dice che comunque ogni paese straniero deve arrivare comunque carico in Italia, scaricare quel carico e poi fa cabotaggio con le operazioni consentite. Ma purtroppo la polizia stradale, che noi ringraziamo continuamente anche per quello che fa come controlli, e non ha i mezzi sufficienti e l'organico per controllare come va fatto un controllo serio. Se lei dovesse avere l'occasione di frequentare l'A4, l'invasione che c'è su questa autostrada che adesso è in corso di costruzione, la terza corsia, qua c'è l'inferno, qua c'è l'inferno, perché l'invasione totale dei paesi dell'est Europa provoca questa situazione, ma oltre che provocare la situazione del traffico, degli incidenti e quant'altro, provoca poi quel disastro sicuramente tra imprese, che è la sostenibilità e il confronto in una reciprocità. Dalle strade ai binari, con il punto sulle conseguenze a carico del nostro sistema logistico provocate dall'interruzione della linea lungo il corridoio Reno-Alpi, corridoio strategico tra l'Italia e il nord Europa. Come vi abbiamo già detto nelle scorse puntate, dal 12 agosto la ferrovia è bloccata in territorio tedesco all'altezza di Rastatt per il cedimento della sede. Secondo Anita, il traffico intermodale si è ridotto del 70%. Ciò va aggiunto che il flusso delle merci deviate via Brennero subisce ulteriori ritardi in seguito all'inasprimento dei controlli da parte della polizia austriaca. E la situazione è destinata a farsi ancora più critica. Nelle prossime settimane, secondo le ferrovie tedesche, la linea potrà essere riattivata non prima del 7 ottobre. Chiaramente vi aggiorneremo. Nel frattempo voltiamo pagina. L'ultimo episodio di cronaca di un certo rilievo risale a qualche giorno fa in Puglia, nella zona di Andria, lungo la provinciale delle Murge. Un tir carico di prodotti alimentari di pregio del valore di oltre 200.000 euro è stato assaltato da un comando di rapinatori che, sotto la minaccia delle armi, hanno sequestrato l'autista e iniziato a trasferire il carico su un altro mezzo. Proprio in quel momento è sopraggiunta una pattuglia della Guardia di Finanza. I rapinatori hanno desistito e battuto in ritirata, facendo perdere le proprie tracce. Partiamo da questo episodio, oltretutto avvenuto in Puglia, la regione più esposta a questo tipo di pratiche criminali, per tornare a parlare del cosiddetto cargo crime, cioè le rapine e i furti ai danni dei mezzi e pesanti. Gli ultimi dati sono parziali, andranno poi aggregati alla fine dell'anno. Quelli forniti dalla Polizia Stradale riguardano gli assalti compiuti lungo la rete autostradale. Qui nei primi sei mesi del 2017 i furti di merce sono stati 161 e si contano 9 rapine. Rispetto allo stesso periodo del 2016 si assiste ad un aumento sensibile dei furti, il 42% in più, in calo invece le rapine. A monitorare il fenomeno su base internazionale è TAPA, l'Associazione della Protezione dei Beni Trasportati. Franco Fantozzi ne è il presidente, lo abbiamo intervistato. Partiamo dagli ultimi dati. Per quello che riguarda il primo quadrimestre 2017, diciamo che la situazione dei quelli che noi definiamo cargo crimes, che comprendono sia le rapine che i furti in danno agli autotrasportatori, non accenna a diminuire come quadro complessivo, nel senso che abbiamo registrato, per quello che riguarda la nostra banca dati, il nostro sistema di raccolta informazioni, oltre 700 episodi in tutta la comunità europea. Ma sentiamo quali sono le situazioni e gli ambiti nei quali un mezzo carico di merce risulta più vulnerabile. Quello che si registra, ed è il motivo per il quale noi ci stiamo concentrando su questo aspetto, è che per l'ennesima volta il luogo dove maggiormente si verificano questi episodi, sia in Europa che in Italia, sono le aree di parcheggio non vigilate, non sicure. E per questo infatti noi come associazione TAP abbiamo istituito una figura che si chiama l'ambasciatore delle parcheggi sicuri, ovvero sono nostri colleghi che volontariamente stanno mappando tutto il territorio, sia italiano che europeo, per poter individuare aree che con un intervento di natura privatistico, laddove purtroppo l'intervento pubblico risente di determinati problemi che lei conosce meglio di me, e si possano realizzare delle aree di parcheggio sicure, intese aree di parcheggio che abbiano sistemi di videosorveglianza piuttosto che sistemi di controllo accessi e, perché no, anche una vigilanza nell'orario notturno e quant'altro. Questa mappatura, come abbiamo sentito, finalizzata a creare spazi sicuri nei quali far sostare i mezzi in transito, è già partita e già sono state individuate alcune aree. Alcune di queste aree mappate già sono, come dire, sono state individuate e vi sono dei contatti a livello di aziende private che stanno investendo su queste aree. È chiaro, non è una cosa che si realizza in poco tempo, perché diverso sarebbe, come dire, rigenerare, portare a maggior livello di efficienza delle aree tipo le aree di servizio o le aree di parcheggio. E un'altra cosa è realizzare ex novo un'area, per intenderci tipo quella che già insiste a Brescia Est, dove su un terreno edificabile si possa realizzare questo tipo di struttura. I tempi, insomma, si sa, ovviamente essendo iniziative private, quindi con uno scopo che, seppur minimo, comunque è di anch'esso di lucro, si sta cercando di realizzarle in tempi abbastanza brevi, però non è così semplice, insomma. Rimaniamo sulle autostrade e andiamo in Liguria, in particolare lungo uno dei tratti più a rischio della 10, la Genova Ventimiglia, quello compreso tra Varazze e Savona. Ricorderete la serie di incidenti avvenuti la scorsa primavera con il coinvolgimento di auto e mezzi pesanti, vittime, feriti, traffico in tilt. Per innalzare gli standard di sicurezza da venerdì scorso su questo tratto, ricordo, tra Varazze e Savona è attivo il Tutor. Ci spiega meglio il commissario capo Maria Grazia Ciardo della sezione di Genova della Polizia Stradale. In direzione ovest, quindi verso Savona, avremo il primo portale diciamo, è posizionato poco prima dello svincolo di Celle Ligure, mentre il secondo postale sarà a circa 4 km, quindi poco prima dello svincolo di Albissola. Mentre in direzione est, quindi verso Genova, il primo postale è posizionato tra la galleria Ranco e la galleria Termine, il secondo postale a circa 5 km e quindi in corrispondenza dell'uscita dalla galleria Terizza. Il limite di velocità è di 110 km orari per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli con massa eccedente le 12 tonnellate, per i quali invece vige il limite dei 70 km orari. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Il programma ritorna come sempre lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.